da dove sia venuta io non so, la voce del tuo cuore sarà magicamente discesa da lassù, dal mondo dell'amore. Ricordo di una notte che non finiva mai, concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Giorni sul lungomare insieme a te, bruciavi più del sole, e gli occhi tuoi nel vento come i miei, in cerca dell'amore. Ombre di una pietà è un prato per sognare, concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. L'estate senza fine poi finì e si gelò il mio cuore, la terra che girava insieme a noi si allontanò dal sole. Ricordo di una notte che non finiva mai, concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me.